La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Leggo la lettera di Lara, la quale scrive: stavo per uscire e mi è venuto un pensiero stupido di guardare nelle tasche di mio marito, cosa che non faccio mai. Però l'ho fatto e ho trovato: uno, un profilattico che con me non usa; due, una lettera d'amore, una lettera di carta scritta a penna come non si usano più, dove si parlava d'amore ma soprattutto di sesso. Una lettera travolgente come nessuno gli aveva mai scritto, e neanche a me. E sembra anche una storia importante. Lui è professore, credo di aver capito che lei sia una sua allieva. 7 anni di matrimonio, intesa sessuale, a mio modo di vedere, perfetta. Nessuna stanchezza sentimentale. Lui mi emoziona e la cosa è reciproca. Non so da quanto duri questa storia, ma niente finora mi aveva fatto sospettare. Ma io non ti credo, sai, che mai avessi sospettato. Forse tutta questa perfezione che tu hai voluto vedere fra te e lui, questa assenza di allarme, non sarà stata invece distrazione o censura, o anche abitudine al quieto vivere. Perché l'inconscio è mascalzone, ne sa più di te, e guarda caso ti ha spinto a fare una cosa mai fatta prima, a guardare nelle tasche di tuo marito. Non è che cercavi le chiavi o le sigarette, eri andata proprio a frugare nelle tasche questi pozzi tenebrosi di ogni svista e di ogni segreto. Queste tasche rovescio dell'anima e rovina di ogni fiducia. Chi ama non metta mai le mani nelle tasche dell'altro e soprattutto non stia a frugare nei telefonini o nelle email, perché il computer e il telefonino sono gli animali che lasciano più tracce, peggio di una mandria di bisonti. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. È passato da poco l'8 marzo. La donna è in prima linea. Per questo muore, più dell'uomo, come più di esso vive. La donna si guadagna oggi doppiamente, triplamente da vivere. Nella guerra tra poveri causata dalla disonestà di chi gestisce il paese, è la prima vittima. Mai è stata così sentita la violenza contro la femmina. Prima c'era il delitto d'onore, adesso c'è il delitto impunito. Prima eravamo donne oggetto, adesso siamo donne utensili. Troppo repentino il rovesciamento del costume. Il padrone, avvilito e defenestrato, costretto dalle leggi a un brusco rispetto per la serva secolare, esplode appena può. Io ricordo in pieno femminismo quando Alberto Sordi picchiava Monica Vitti, moglie con pretese di libertà, veniva giù il cinema dagli applausi. Bene, queste cose le ho scritte in un mio vecchio articolo del 1985, ovvero di 28 anni fa. Cosa è cambiato? È cambiato che il numero delle donne uccise è aumentato continuamente. Ho ricevuto una lettera che mi sembra giusto leggere per l'8 marzo. Cara Barbara, una vergine viene consacrata a Dio secondo il rito della consacrazione delle vergini. No, non si tratta di un rito inca o di altre popolazioni primitive. Siamo nella civilizzata Europa dell'anno Domini 2012, in un paesino della Val Badia in Alto Adige. E quelle parole sono la formula ufficiale con la quale il 9 dicembre scorso una giovane donna, ammantata di bianco per l'occasione, viene consacrata quale vergine consacrata a Dio, con solenne cerimonia officiata dal vescovo di Bolzano in persona, Ivo Muser. La formula non parla di donna, essere umano o persona, no, solo di vergine. Al termine della cerimonia molti bambini, molto piccoli, offrono rose bianche alla vergine in bianco. Il telegiornale Rai tedesco di Bolzano dà ampio risalto alla cerimonia. Questi riti medioevali ci ricordano ancora come gli uomini attribuiscano a Dio o agli dei una loro particolare predilezione per le vergini. Dagli Inca fino alle 72 vergini che aspettano i kamikaze musulmani in paradiso, sembra proprio che quella della Vergine sia un'eterna sega mentale degli uomini e anche di molte donne. Cosa servono anni di battaglie per l'emancipazione se poi nella loro corsa le donne vengono gambizzate dal fuoco amico proveniente dalle due parti dello steccato morale e, come nel gioco dell'oca, rimandate ogni volta alla griglia di partenza, nel ruolo di donna oggetto da offrire sui diversi altari? Se fossi una donna non disperderei le mie energie, le impiegherei solo per la mia personale emancipazione. Qual è il tuo pensiero? Sergio, Trento. Caro Sergio, la Chiesa è sempre stata la grande nemica della donna. La Chiesa ha sempre saputo che la donna è la chiave di ogni potere, perché produce la vita. Se ci ha calpestate, rinchiuse, atterrite, bruciate, tenute nell'ignoranza, è perché siamo pericolose per davvero. Se le sfugge di mano la donna, la Chiesa è perduta. È uno degli scandali più grandi della Chiesa di oggi. A tutt'oggi la donna viene considerata dalla Chiesa cattolica indegna del sacerdozio. La donna è impura, non può amministrare i sacramenti. E in questo senso poi la Chiesa appunto è sorda a qualsiasi protesta. Però senti, l'8 marzo ci lagniamo sempre e abbiamo ragione. Io però vorrei ricordare una cosa che abbiamo conquistato, che nessuno ci può più togliere, ed è che abbiamo più coraggio. Le donne, secondo me, al 99% sanno nella pratica quotidiana, senza manifesti e senza bandiere, sanno che la vigliaccheria è in sé una maledizione e un castigo, sanno che il coraggio è respiro, teatro con se stessi, cenno d'intesa al piccolo sbruffone che è in noi e che nell'onnipotenza infantile voleva vedersi come un eroe e non come un leccaculo. Ecco, questo è tutto quello che ho da dire sull'8 marzo. Cara Barbara, ho 37 anni. Sono felicemente sposata e ho un figlio di 3 anni. Negli ultimi anni alcuni eventi tragici hanno segnato la mia vita e reso difficoltosa la mia quotidianità. Ed è proprio in questo contesto che mi infatuo di un collega, oltre 20 anni più di me, scapolo, non bello né affascinante. Credo che all'inizio mi abbia attratto il semplice fatto che lui fosse attratto da me e così decido di buttare via il mio consueto buonsenso e con un SMS gli chiedo di vederci. Lui non mi dice né sì né no, semplicemente non mi risponde. E a dire il vero, nemmeno me ne stupisco perché i suoi discorsi e le sue confidenze mi avevano fatto intuire una certa misoginia, una sorta di attrazione e timore delle donne, un rapporto comunque problematico con l'altro sesso. E chissà, forse è proprio per questo che il mio subconscio ha scelto lui, perché sapeva che con quest'uomo non avrei mai concluso nulla e non avrei messo a repentaglio il mio matrimonio. Resta il fatto che la cotta non mi passa e ci soffro. Lui poi, da quando gli ho mandato il messaggio, ha naturalmente cambiato atteggiamento. Sempre gentile, ma ha smesso di guardarmi in quel modo, di cercare la mia vicinanza fisica, di farmi complimenti. Forse la consapevolezza del fatto che il suo desiderio possa essere realizzato lo spaventa. O forse sono io che non capisco più nulla. Grazie, Carlotta. Tu inizi la lettera dicendo «Sono felicemente sposata». No, tu non sei felicemente sposata. Tu sei invaghita di un altro che non ti vuole, che ti corteggiava così a tempo perso per insaporire le ore di lavoro e ne ha tratto di letto finché era senza rischio, come scrivi tu, ma dal momento che ha visto che tu lo corrispondevi si è precipitosamente ritirato. Ora io capisco, nella tua situazione difficile quest'uomo era solo un sogno di sostegno e solo quello hai perso, non un uomo reale, ma il punto è tutto lì, in quel felicemente sposata. Tanti scrivono la stessa cosa morendo d'amore per qualcun altro, ma mi spiegate una volta o l'altra cos'è per voi la felicità e soprattutto cos'è essere sposati? Cos'è una sistemazione, una società? Niente di male, però vorrei capirlo. Sono un uomo di 71 anni, divorziato a causa tradimenti di mia moglie, con la quale pur avevo un'ottima intesa sessuale. Ma cambiando città ho voluto provare nuovi stimoli. Ma non è questo il problema, è che lei ha attivato tutti i metodi più subdoli per usare le nostre figlie contro di me e contro la nonna paterna che ha 94 anni. Da quando mi sono operato di cuore nel 2000, la madre ha intentato una causa penale contro di me, per togliermi ogni avere. Ma non ero ricco, solo un dipendente Fiat, facendola firmare anche alle figlie, causa che ha perso. Le figlie mi dissero che la firma fu estorta indicando altri fini. Gli dissi di ritrattare, ma non lo fecero mai. Credeva di distruggermi. Invece si è trovata a dover pagare avvocati e tribunali, tanto da finire per essere pignorata, portando in malora se stessa e le figlie. Le ho comunque aiutate, dando loro 25.000 euro a fondo perduto, per risollevarsi. Non una parola. Madre e figlie lavoravano e lavorano, ma non ne avevano mai abbastanza. Oltre 20.000 euro di spese legali, solo le mie, che potevano avere una destinazione più saggia. Non so se sono stato un buon padre. Ho cercato di esserlo. Abbiamo anche vissuto felici. Ma quando abbiamo lasciato Bari, per Bologna, la mia ex ha perso la testa. Mia madre, più che amarle ed aiutarle, non ha fatto nulla di male. E poi è anziana. Un po' di rispetto non guasterebbe. Dimenticata come fosse morta. È come se fossimo spariti da questa terra. Hanno cambiato casa. Ho dato loro il mio nuovo indirizzo, ma non conosco loro. Mi hanno rubato il telefono. Non ho più il loro cellulare. Fino a mesi fa comunicavo con email sul posto di lavoro, ma erano sempre offese con me. Ho trovato un blog di mia figlia Silvia, ma non mi risponde. Eppure sono sempre stata una persona buona, onesta e lavoratrice, e i miei genitori anche. Mi sono rivolto a uno psicologo, ma mi dice che non devo cercarle. Devono essere loro a sentire la voglia di contattarmi. Se un padre perde i figli, perde buona parte di se stesso. Ma dei figli che si tagliano le radici possono vivere bene. Cosa raccontano? Di essere orfane? Se avessero il padre in carcere, lo andrebbero a trovare. Cosa posso fare? Mi devo rassegnare o che cosa? In questi 2 anni ho subito 12 interventi chirurgici, ma non ho mai detto loro nulla. Non voglio pietà, ma solo un po' d'amore. Il tormento è continuo e non so darmi ragione. Lei cosa ne pensa? Grazie. Bruno Venturi. Bruno, io non mi sogno nemmeno di chiederti, ma tu che hai fatto? E di trasformarti da perseguitato in imputato. Perché probabilmente non hai fatto niente. Perché non fatico a credere che tu sia perfettamente innocente. Conosco troppo bene questi terremoti emotivi della natura umana, per cui succede in una nazione, come anche in un gruppo familiare o di lavoro o di partito, che esploda ogni tanto una voglia irrazionale e feroce di linciaggio, di eleggere qualcuno a indegno, a capro espiatorio, e accanirsi tutti insieme. L'avverarsi di un teorema paranoico che vuole la vittima, che diventi il simbolo di ogni torto e fallimento per mascherare i propri. Io credo, Bruno, che se la moglie e le figlie hanno deciso di odiarti, non ci sia niente da fare. Finché questa nube di follia e di cattiveria non si dissolverà da sé, sperando che il tempo riporti un po' di lucidità e di giustizia. Scusa se ho fatto qualche taglio alla lettera, dove dicevi tra l'altro che non vuoi importi, che non vuoi forzarle ad un rapporto, non vuoi arrivare come un ospite sgradito, vuoi essere invitato, e hai ragione, e quindi ti trattieni dal cercarle con una forza d'animo quasi sovrannaturale, perché il fatto che tu abbia sopportato 12 interventi senza avvertirle, senza chiedere, 12 anestesie totali che ti avvicinano così tanto alla paura della morte, e non le hai chiamate. Che cosa ne penso? Quello che è, che stai attraversando un calvario e che le tue figlie si stanno preparando un rimorso che, quando tu non ci fossi più, sarà difficilissimo da sostenere. Quando vi siete trasferiti dal sud al nord, da Lecce a Bologna, tua moglie ha smarrito una parte di sé, ti ha tradito e poi ha convinto le figlie che eri tu il mostro, e loro si sono lasciate coinvolgere in una vendetta contro un colpevole immaginario. Io non so, chissà che se sentissero questa tua lettera alla radio cosa farebbero. Si potrebbero confermare nel loro odio, oppure, ascoltando come tu esponi i fatti con tanta dolorosa calma, chissà mai avessero l'impulso di chiamarti. Non c'è niente da fare contro l'odio immotivato. È peggiore di quello motivato. A me è successo in piccolo, tempo fa, una persona a me cara mi ha coperto di insulti attribuendomi una colpa inventata, e io non reagisco perché mi rendo conto che sotto c'è un tale contorto lavorio di realtà travisate, di finti moventi, che non riguardano me ma soltanto lei. Così questa cosa riguarda tua moglie e le tue figlie. Una cosa è certa, che tua moglie ti voleva morto. Chissà, per giustificare i suoi tradimenti e trasformarli in un atto dovuto, quasi in un atto di giustizia. E chi lo sa? L'unica cosa certa è che tutte e tre hanno compiuto su di te, e stanno ancora compiendo, col loro abbandono, un omicidio rituale. Però, per fortuna, sei qui, vivo, e lo racconti. E se le cose stanno come dici, e io sono, ti ripeto, fortemente incline a crederlo, ti esprimo tutta la mia solidarietà, con una grandissima simpatia, e di tutte le torture familiari che posso immaginare, difficilmente ce n'è una più brutta di questa. La guardiana del faro. A noi piace giocare con le visioni, con sguardi laterali, con pregiudizi gloriosi e sventatezze ardite. Questa è l'epigrafe di Una notte ho sognato che parlavi, di Gianluca Nicoletti, pubblicato da Mondadori per Strade Blu. Un libro che mi ha fatto veramente bene. Il sottotitolo è Così ho imparato a fare il padre di mio figlio autistico. Un sottotitolo esplicativo ma parziale, perché sì, questo è l'argomento. È la storia del rapporto dell'autore con Tommy, un bel gigante che ricorda i Bogatir, i principi guerrieri delle saghe russe medievali. Ma c'è molto di più. Su di me ha avuto un effetto risanante, perché almeno nel tempo della lettura questo libro ti rende simile a se stesso, ti rende un combattente, insaziabile nella sperimentazione e nella conoscenza. Ti rende giocatore, come nella poesia di Prévert che lui dedicò a Boris Vian. Boris Vian giocava alla vita come altri giocano in borsa, a guardie ladri o a soldi, ma non da baro, da gran signore. Ed era un bel giocatore. È un libro né pietistico né trionfalistico. Semplicemente la verità. La pura verità, non la nuda verità. La verità raccontata da un visionario capace di trasfigurazione. È la storia di una grande seduzione, di questo figlio verso il padre e viceversa. È la storia di uno studioso d'altri mondi che passa la vita a decodificare linguaggi mediatici, dalla televisione alla rete, linguaggi che coinvolgono milioni di persone. Ed ecco che si trova a dover decifrare i codici di un essere umano soltanto. Si trova davanti al più grande enigma della comunicazione che mai gli sia capitato, suo figlio. È la storia di un padre con un figlio autistico, il quale padre capisce che la salvezza è in un rapporto totale. Capisce che c'è poco da mercanteggiare e da proteggersi, che la sua vita non è più la sua vita, ma è quella con Tommy, e che deve dare il meglio di ogni sua facoltà intellettuale, artistica e intuitiva in questa impresa, essere con Tommy. E capisce infine che ciò che lo imprigiona lo libera. Nicoletti è studioso d'altri mondi, d'altre dimensioni. Il punto sono gli altri mondi. Il punto è il volo. Questo è il tema del libro. Nulla è come gli altri ti dicono. Infiniti sono i modi di rapportarsi con la nanche, come la chiamavano i greci. La necessità, il fato. Prima che Tommy arrivasse all'adolescenza, ci fossi o non ci fossi, era per lui indifferente. Dal giorno del suo primo attacco epilettico, però, quel mio bimbo gigante è stato capace di riprendersi la mia attenzione, come fosse il primo fra i miei figli. E ora, che ha 14 anni, sto occupando a tempo pieno ogni mia giornata. Vorrei essere a mia volta un diversamente normale patentato, ancor più di quanto mi hanno già spesso giudicato. Ma so che, per quanto mi sforzerò, potrò essere al massimo visto come un signore originale, con idee curiose, anche paradossali. Essere un soggetto afflitto da disturbo generalizzato della comunicazione e della relazione, con tanto di carta bollata, sarebbe per me persino tranquillizzante. Purtroppo però, io sono dipendente dall'attenzione dei miei simili. Quando mi interessa una persona, le parlo, la studio, la turlupino. Lo faccio come chiunque normalmente fa, sia che chieda un chilo di zucchero alla vecchia fruttivendola, sia che aneli a un contatto utile. L'autistico è una persona che se ne infischia di tutto questo. Al massimo può dedicare al prossimo uno sguardo stralunato, senza grande trasporto e pensando a chissà cosa. Ma può capitare che nel mucchio degli stranieri ne scelga uno, che lanci un filo impalpabile e accalappi il fortunato. Non si sa quale sia il principio della scelta, né quanto tempo durerà la connessione. Forse tutta la vita, forse solo una stagione. Io per ora so che sono stato scelto e non riuscirò a tirarmi indietro. Penso che ogni autistico sia orfano dalla nascita e che noi siamo al massimo i suoi genitori adottivi. Posso quindi ritenermi fortunato di essere stato scelto da Tommy per fargli da padre. Noi psicoabili svisceriamo le nostre vite nell'anelito di entrare in comunione con altre persone, di capirle, di essere compresi, adulati, stimolati. Se per un giorno azzerassimo il bisogno di comunicare, che ci rende bestie sociali, saremmo anche noi normalmente autistici. Sia chiaro, non voglio giustificare una patologia illudendomi che sia uno stato di privilegio. c'è tutta una parte di sofferenza che non può essere sottostimata. E parlando di Tommy, lui è nato libero, ma sembra che noi, quasi per invidia, facciamo di tutto per costringerlo a costruirsi gli stessi legami che appesantiscono le nostre esistenze. Il prezzo è alto, perché, come scrive Nicoletti, Tommy è anche un condizionatore di esistenze implacabile. Non illudiamoci, un figlio autistico fa tracollare le armonie coniugali, prosciuga le passioni, incanutisce ogni vita di coppia. Avviene in qualche caso immediatamente. Di solito il maschio scappa e molla tutto alla madre. Occorre con santa pazienza cercare di farsene carico assieme, mentre scoppia la guerra in famiglia tra chi sia più o meno eroe da prendersi il fardello. L'autistico fa saltare il tappo del non detto, un'altra delle sue innegabili doti di rivelatore di realtà sommerse, ed è anche un rivelatore di umanità grottesca. Tommy è spesso il mio radar sull'umanità. Tengo sempre in osservazione speciale chi a lui sta sulle palle, fidandomi del suo pregiudizio fulminante, perché so che alla fine ha sempre ragione lui. Di fronte a Tommy cade la maschera. Nessuna cosa che abbia scritto Gianluca Nicoletti, articoli, libri, ha mai espresso così bene la sua poetica e il suo pensiero. Nel frattempo gli è successo qualcosa. Gli è successo di essere stato tommizzato, ovvero influenzato da Tommy, diventando più incline all'essenziale. Chi è Gianluca Nicoletti? Gli ascoltatori di Radio 24 lo sanno molto meglio di me perché ascoltano Melog. Anch'io ho conosciuto la sua voce prima di lui. Ascoltavo Golem a Radio 1. La mattina ero sempre lì a sentire questo affabulatore geniale. Mi era diventato indispensabile cominciare la giornata con la sua visione scandalosa, che non faceva parte di nessuna scuola di pensiero, nemmeno della propria, perché c'è un'evoluzione continua. Golem, come adesso Melog, era per me un rito lustrale. Mi faceva svaporare tutta la pigrizia mentale che avevo assorbito il giorno prima. Con quella voce da prete umbro, questo apocalittico laico, questo bambino anarchico cresciuto all'ombra delle sagrestie, questo trasvolatore dei luoghi comuni, un rivoluzionario nel commentare la TV. Non parlava solo di programmi, era all'avanguardia come studioso dei media, fra i primi a capire cosa fosse il linguaggio televisivo. Mentre tutti parlavano del vedere la TV, lui diceva: attenti, la televisione ci guarda. Che sembrava un paradosso surreale, ma è un tema che fu poi sviluppata dal filosofo francese Jean Baudrillard, rivelandosi una tesi fondatissima. In questo libro c'è una sincerità spietata e vitale nel raccontare di sé e di Tommy. Tutto racconta di quanto sia legato, di quanto sia libero, delle gioie che gli dà questo ragazzo, come dice lui, relazionalmente trasandato, e di quando anche darebbe la testa nel muro, con la felicità di scrittura di chi si concede, finalmente, anche a se stesso. C'è un punto sul quale l'autore insiste molto, ovvero che ci sono mille modi per essere autistici e mille modi per stare con un autistico. Qui si tratta di Tommy e di suo padre. È la storia universale, perché intima, di un uomo e di un ragazzo, raccontato anche con la grande spiritualità che è l'umorismo. Uno va in libreria, legge il titolo. Una notte ho sognato che parlavi. Dà un'occhiata, dice: vabbè, io non ho un figlio autistico, non ho nemmeno un figlio, ma che me ne frega a me? Moltissimo. Sotto questo diario di un padre c'è una proposta di vita che mi ha turbata ed entusiasmata. C'è un dubbio sulla nostra qualità di comunicazione, una filosofia che sconquassa quella nella quale viviamo, ovvero il suicidio dell'apparire e del moltiplicarsi, del comunicare su Twitter, su Facebook, con 600 persone, cioè con nessuna. Chi dice che un autistico non comunica non ci ha mai vissuto insieme. Io direi piuttosto che non è interessato a dover continuamente informare il mondo dei suoi punti di vista. Sono convinto che l'autistico possa rappresentare l'avanguardia di una società futura. Oggi viviamo il periodo barocco dell'era della comunicazione. Siamo in clima di controriforma. Celebriamo la sovrabbondanza della confezione come regola principale del mestiere di comunicare. Ci esaltiamo del superfluo relazionale. Ci perdiamo nella compulsiva ricerca di esistenza che ci assicura il divulgare noi stessi in tempo reale. Passata questa ondata euforica, in gran parte indotta dal mercato, arriverà fatalmente per tutti una fase di parsimonia verbale e castità connettiva, di cui l'autistico è l'anticipazione più felice. Penso che Tommy sia il mio personal trainer occulto, anche se non ho capito per quale genere di gara mi stia facendo allenare. L'autistico nella sua indifferenza è una macchina perfetta. Ogni nostra relazione è un gorgo di ambiguità ed è mirata al controllo dell'interlocutore. Questa frase mi ha gelato. Sì, perché va bene per i rapporti di odio, ma mi sono interrogata invece sui rapporti d'amore. A proposito di comunicazione, un'amica che conosce Tommy da quando è nato mi racconta un episodio di quando lei aveva circa 60 anni e Tommy 5, e la vide apparire a una stazione e la salutò dicendo «Nonna!» L'essenziale. Mi diceva questa amica, Tommy non si lasciava ingannare dai capelli che ancora mi tingevo. Mi dava in questo modo un posto nella loro famiglia, l'emozione di essere stata riconosciuta mi configurava nel tempo e nello spazio. C'è una potenza eversiva in questa storia, con uno Charlot sempre in bilico, il padre, e il ragazzino gigante, una grande coppia letteraria unita da una specie di edonismo del silenzio. Tommy è un personaggio di una simpatia travolgente, con quel suo buddismo naturale e la superiorità di chi non fa niente per piacere agli altri. Questo libro è la storia di una grande intesa fra un padre ricco di parole e il figlio che ne ha poche, e si compensano. La storia di un equilibrio impossibile e di una telepatia, tanto che il padre alla fine si capisce con Tommy più che con chiunque altro. Questo bambino che va a dormire nel letto dei genitori perché è inquieto, non si sa perché, e poi sarà la notte del terremoto, altri codici di comunicazione, per cui trascura ciò che è comune a tutti noi e sente ciò che a noi è nascosto. Tommy è anche un rivelatore di umanità grottesca. Nelle lotte stradali che sostiene con lui, in questa opposizione che fa ad un mondo diviso tra vincenti e perdenti, dove vige, in una parola, la legge della giungla. La guardiana del faro. Sto parlando del libro di Gianluca Nicoletti, Una notte ho sognato che parlavi, sottotitolo Così ho imparato a fare il padre di mio figlio autistico, ed è la storia del suo rapporto con questa creatura affascinante e inconoscibile, ma che alla fine manda dei segnali irresistibili, che è Tommy, suo figlio. Non sono convinto che l'autistico sia infelice. Questo di lui si pensa solo perché non si pone un grosso problema di quello che faccia il resto del mondo e sorride poco. Io so che mio figlio è felice quando mi accarezza la nuca senza motivi apparenti. Tommy è sereno quando sente affetto che non chiede verifica o risposta. Non mi sembra poco. Potessimo tutti sentirci amati senza dover necessariamente corrispondere, saremmo appagati anche di una carezza. Siamo invece sempre ingabbiati in patti di sangue, per cui dobbiamo ricambiare ogni milligrammo di attenzione che un nostro simile ha la generosità di attribuirci. È una vera schiavitù. Chiunque ne è condizionato. Se pensi a quanti occhi da cane bastonato abbiamo avuto davanti nella vita, ogni volta che qualcuno ha voluto farci sentire il peso della nostra indifferenza, con quello che ci veniva contrabbandato come emotivamente speso in nostro favore. Anche la più sublime delle ispirazioni poetiche, più che dell'amore, tratta del ricatto amoroso. Che noia! Viva l'avanguardia di Tommy e dei suoi simili, che non si sentono in dovere di assumere tratti esteriori diversi a seconda del sentimento che emaniamo nei loro confronti. Il concetto essenziale. Immaginiamo che a un certo punto ci si renda conto che parte del nostro processo di civilizzazione non è la miglior maniera per sentirci felici. Oggi possiamo esprimerci liberamente. Ancora nessuno si sognerebbe di desiderare una relazione non basata sul ricatto emotivo, vale a dire: non mi interessa che tu mi corrisponda. Marcino a passo di parata le mamme che invecchiano quando i figli crescono, i padri sconsolati, separati, giuridicamente discriminati. Insomma, potrei dilungarmi, ma sarebbe difficile trovare rapporti più all'avanguardia di quelli tra un genitore e un figlio autistico per raffigurare chi riesca a elargire così profondo affetto ottenendo in cambio una tale labile segnalazione di gratitudine. Tommy mi ha leggiatamente esonerato da tutti i sacri doveri che un padre eredita e che deve trasferire sulla progenie maschile. Cosa mai dovrò spiegargli della vita? Lui non sa nulla, ma per quello che gli serve sa già tutto. A Tommy, anche se volessi, non potrei raccontare in maniera convincente che esiste un essere superiore o una realtà trascendente. Le sue categorie sono basilari, come il pantheon di un aborigeno. Nel suo universo c'è Tommy come soggetto. C'è la sua casa, c'è l'iPad, c'è il tandem con cui esce con suo padre, forse c'è anche suo padre. Ma non credo abbia un rango diverso da ogni forma di esistenza che ho appena elencato. Ora, con tutte queste lacune, si può vivere serenamente? La risposta che fino ad oggi posso dare è sì. Si può vivere senza regole superiori. Si può vivere senza legami di sangue. Si può vivere senza essere annichiliti dal mistero della vita. C'è un capitolo interessante sul cattivismo, che è il ghigno opposto e orribile del buonismo. C'è un gruppo di sciocchi, presuntuosi, che si definiscono umoristi e parlano con leggerezza, come se facesse ridere, della eliminazione dei disabili. Oggi, che il linguaggio sta diventando più educato, si dice diversamente abili, ma la realtà è diversa. Tutti gli sforzi della civiltà svaniscono davanti al mercato. Quello che chiamiamo economia ed è il lento strangolamento delle popolazioni. La crisi di cui tutti parlano in questo periodo ci sta avvicinando a una versione morbida dello stesso principio dei gusci vuoti che determinò lo sterminio accettato dei disabili durante il nazismo. E parla di un manifesto del Terzo Reich. C'era un operaio mentre reggeva a fatica sulle spalle il peso di due persone con evidenti problemi di handicap. E c'era scritto: tu stai sostenendo questo peso. Il costo di una persona affetta da malattia ereditaria fino al raggiungimento dei 60 anni è di circa 50.000 marchi. E sei tu che li paghi. Fu lo slogan più azzeccato del progetto Action T4, che fin dall'autunno del 1939 operò lo sterminio sistematico di cittadini tedeschi affetti da patologie fisiche, mentali e sensoriali, e quindi non produttivi. Il bilancio finale fu di 250.000 persone uccise, tra cui 5.000 bambini. A questo avevano partecipato medici, scienziati, infermieri e nel silenzio tutta la popolazione, perché avevano fatto il conto di quel manifesto. Ecco, la crisi di cui tutti parlano ci sta avvicinando a una versione dello stesso principio dei gusci vuoti che determinò lo sterminio accettato dei disabili durante il nazismo. I disabili non sono gli altri. Qui si tratta di noi. Ma torniamo al volo, che è una dimensione così importante, l'altra dimensione. In una delle sue tante vite di fenice mediatica, Nicoletti ha navigato su Second Life con un alias che si chiamava Scarfiotti. Poi Second Life è tramontato, ma Tommy ha recuperato Scarfiotti e si diverte molto con lui. Fa volare il simulacro del padre sopra il mare aperto, nella direzione del sole, e poi lo fa precipitare. E qui naturalmente c'è anche il rischio che lo imiti, che possa pensare che davvero ci si possa buttare come dalla finestra per divertimento, come su Second Life, e qui spuntano le inferriate alle finestre. Due parole di statistica. L'autismo è nel mondo la prima causa di handicap. Ogni 6 anni la quantità di bambini autistici raddoppia. Al momento possiamo dire grosso modo che come Tommy nasce un bambino ogni 100. Poi c'è il mondo che dovrebbe essere preposto a questo, nel capitolo Un sostegno di poco sostegno, una organizzazione pubblica che diventa una speculazione sulle spalle dei bambini e delle loro famiglie. Nella regione Lazio non c'è più un soldo per i disabili, se li sono mangiati tutti, è diventato un grande affare e a un certo punto questo padre sbotta: ma quanti ci devono guadagnare sul problema di mio figlio? E qui c'è la cosa forse più interessante del libro, ovvero un progetto che si chiama Insettopia. La domanda è terribile: cosa farà mio figlio quando io non ci sarò più? E allora viene l'idea di Insettopia. Ogni genitore di ragazzo autistico cova nel suo profondo l'idea del paese che non c'è, costruito su misura per suo figlio. È qualcosa di simile a Insettopia, la terra promessa degli insetti evocata in Zeta la formica, cult movie di mio figlio. Insettopia è una discarica con avanzi di cibo al confine di Central Park, dove abita questo universo di piccoli insetti innocui che devono difendersi dagli altri. Io penso che Tommy e i suoi siano le formiche operaie, o come tali comunque vengano percepiti dal resto dell'umanità, fatta sempre di insetti, ma di quelli spavaldi e prepotenti, come nel film sono i grossi formiconi, oppure le cavallette. vedo come cavallette tutte le persone che desertificano le risorse destinate ai più deboli, quelli che appaltano il grande affare della disabilità facendone il loro business. E ora che l'idea che per tutti ci possa essere un'insettopia felice sovrascriva l'arcaico contrappasso per cui alla fine la famiglia è l'unica alternativa a quei famigerati luoghi di compostaggio di rifiuti speciali dell'umanità a cui veniamo consigliati di rivolgerci. I tanti più istituti, cooperative, fondazioni d'enti morali, per i quali passano tanti soldi ma si traducono in ben pochi benefici per i nostri ragazzi. Chi si sente assolto dal pregiudizio che qui esprimo lo dimostri. Ora sa come muoversi, ovvero cooperando alla creazione di questa città. La città che mi piacerebbe costruire, dentro ogni città, che non somigli né a un ospedale, a una clinica, a un manicomio o a un carcere. Io abito nel quartiere delle vecchie caserme umbertine, ormai dismesse, e quando ci passo davanti costruisco nella mia mente la nostra città felice. I nostri figli ci sopravvivono e non sono un carico lieve da amministrare. Tanto varrebbe allora costruire sin da oggi la loro città e abituarsi all'idea che ci possa essere in ogni municipio o quartiere un'insettopia per chi non si trova a suo perfetto agio tra gli umani. Sarebbe l'esatto opposto della segregazione. Sarebbe l'equivalente dell'ufficio, del luogo di lavoro, del bar dove si va a prendere l'aperitivo, della palestra, del calcetto, della scuola. E quindi c'è questo sogno che poi basterebbe la volontà. Ci sono un'infinità di edifici non adoperati. Noi ci dividiamo un figlio che più cresce più ha bisogno di noi. Se non costruiamo la nostra insettopia, che sarà di lui quando non ci saremo più? Qui mi fermo. Alla fine temo non se ne farà nulla. Continuerò a guardare ogni edificio inutilizzato come un possibile fortino da espugnare per fare la nostra città. So che continueranno a regalarne a circoli sportivi, associazioni culturali, comunità religiose, se ne faranno lussuosi scannatoi per i potenti della politica, oppure centri conferenze per raccogliere sbadigli, in appalto alle brave persone che per mestiere si occupano del sociale, senza fare niente. Chissà se qualcuno si interesserà a questo progetto, qualcuno che magari faccia politica, uno dei pochi non mascalzoni che fanno politica, qualcuno al quale come all'autore piaccia giocare con le visioni, con sguardi laterali, con pregiudizi gloriosi e sventatezze ardite. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.